Credenti o discepoli? Nella parola di Dio, coloro che ponevano fede in Gesù Cristo venivano chiamati con vari nomi. Santi, Filippesi 1:1, figli di Dio, 1 Giovanni 3:1, cristiani, Atti 11 e 26, credenti, 1 Corinzi 1:21, discepoli, Atti 6:1. La domanda che ci si pone è questa: se coloro che hanno creduto in Cristo hanno la stessa fede, perché si fanno queste distinzioni? Nulla di nuovo, perché anche nella lingua italiana abbiamo queste sfumature. Il termine casa, per esempio, ha per sinonimi fabbricato, stabile, alloggio, appartamento, perché ogni nome ne presenta una caratteristica. Così coloro che per primi posero la fede in Cristo venivano chiamati con vari nomi per identificarne una caratteristica. Con il termine santi si voleva intendere la loro chiamata da parte di Dio. Con il termine figli di Dio si voleva intendere il loro rapporto di figliolanza con Dio. Con il termine cristiani si voleva intendere che erano seguaci di Cristo. Con il termine credenti era messo in evidenza la loro fede in Dio. Con il termine discepoli veniva messo in risalto la loro vita che si adeguava a quella di Cristo. Con queste riflessioni mettiamo in evidenza la differenza che passa tra chi è credente e chi è un discepolo. Mentre il credente è uno che crede, il discepolo è uno che segue. In questa ottica possiamo dire che vi sono due tipi di figli di Dio, credenti o discepoli. Tutti i discepoli sono credenti, ma non tutti i credenti sono discepoli. Il credente è uno che si è arreso a Cristo per ricevere il dono della salvezza. Il discepolo è colui che segue il suo Salvatore. Per essere salvati noi veniamo a Cristo per ricevere la salvezza. Per essere discepoli noi dobbiamo ascoltare, seguire Cristo e metterci al suo servizio. La grande maggioranza dei figli di Dio oggi sembra interessarsi solo a ricevere la salvezza, mentre relativamente pochi prendono ogni giorno la croce e lo seguono con una completa consacrazione. L'apostolo Pietro ricevette due chiamate. La prima fu a venire a Gesù. In un secondo tempo Gesù lo chiamò a mettersi al suo servizio. Per essere salvati dobbiamo andare alla croce e accettare l'opera di Cristo a nostro favore. Per essere discepoli dobbiamo portare la croce e cominciare a lavorare per Lui. Molti accettano il Cristo della croce, ma rifiutano la croce di Cristo. Anche di discepoli ce ne sono di due qualità. Coloro che sono chiamati da Cristo direttamente, come i 12 discepoli e Paolo che Gesù scelse, e coloro che decidono di diventare dei discepoli. Cristo non ha mai esercitato nessuna pressione su coloro che volevano seguirlo. Anzi, il più delle volte metteva in chiaro le cose. Leggiamo nel Vangelo di Luca il seguente episodio. Ora avvenne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Signore, io ti seguirò dovunque andrai». Ma Gesù gli disse: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Poi disse ad un altro: «Seguimi». Ma quello rispose: «Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre». Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». Ancora un altro gli disse: «Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia». Gesù gli disse: «Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Luca 9, 57-62. Alcune persone avevano espresso il desiderio di seguire Cristo, ma Gesù ha fatto sempre presente le varie difficoltà che si incontrano seguendolo, e questo perché non ha mai incoraggiato le teste calde e gli irresponsabili a servirlo. Gesù non ha bisogno di far numero, ma di persone che con un atto di maturità sanno a cosa vanno incontro. Egli non ha bisogno di eroi, ma di martiri completamente consacrati. Infatti, delle tre persone che erano disposte a seguirlo, la prima fece un atto di consacrazione superficiale. Le altre due erano disposte a seguire il Maestro, ma misero un prima, che tradiva la loro consacrazione totale. Il paesaggio cristiano è cosparso di relitti, di torri semidistrutte. Molti si impegnano fino a guadagnarsi il rispetto degli altri, ma non abbastanza per vivere le condizioni poste da Gesù. Il servizio cristiano non può essere preso alla leggera. Le parole di Giosuè rivolte al popolo che testimoniò di voler seguire l'Eterno sono sempre attuali. Voi non potete servire l'Eterno, perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso, Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri, Egli si volterà, vi farà del male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene. Giosuè 24:19-20. Proprio perché il nostro Dio prende sul serio le nostre parole, Egli non tollera che facciamo professione di fede con la bocca e poi con i fatti lo rinneghiamo. Quando Gesù disse, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Matteo 28:19, sintetizzava i propri scopi. Egli non desidera degli ammiratori, qualcuno a cui magari di tanto in tanto capiti di formulare una distratta preghiera. Gesù cerca persone che siano pronte a orientare tutta la loro vita verso Dio. Un discepolo di Gesù è una persona per la quale la volontà di Dio ha priorità assoluta nella sua vita. Ciò può essere paragonabile a chi sceglie uno sport agonistico. All'inizio la sua attività non condizionava la sua vita. In seguito ha dovuto lasciare o abbandonare del tutto compagnie e svago per dedicarsi totalmente allo sport scelto. La stessa cosa succede quando si decide per Cristo. Ci sono delle conseguenze. Un discepolo deve essere pronto a conformare interamente la propria vita all'elezione da parte di Dio e deve decidere di fissare delle nuove priorità. Nuova vita in Cristo significa anche nuova vita per Cristo. Per un discepolo è giusto che la volontà di Dio abbia precedenza sulla propria volontà. Per un discepolo di Cristo le sue parole avranno un profondo significato. Leggiamo in una ottica diversa ciò che troviamo scritto nel Vangelo di Luca. Or grandi folle andavano a lui, e Gesù si rivolse loro e disse, «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui dicendo «Quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare». Ovvero, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi, che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra, né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire oda. Si dicono tante parole, ma la predica più efficace e più credibile per un mondo incredulo e perduto sono i discepoli di Cristo. Gesù disse che non è possibile essere suoi discepoli se non si rinuncia a tutto ciò che sia, anche agli affetti più cari come la moglie e i figli. E se lo ha detto lui significa che è vero. E quando il mondo vedrà i seguaci di Cristo pronti a tutto e a rinunciare a tutto, comprenderanno dove stanno i veri valori. I credenti possono testimoniare, ma i discepoli dimostrano al mondo con la loro condotta il messaggio predicato. Essere discepoli è contagioso. Perciò difficilmente un discepolo che ha valutato tutti i pro e i contro e rimane tale, resta solo. Gesù disse ai suoi discepoli, «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Nonostante sia Dio, Gesù Cristo non ha mai imposto a nessuno la sua autorità. Ma il suo invito è sempre presente. Se qualcuno mi vuole seguire, nessuno è obbligato a diventare discepolo di Cristo perché Dio desidera una decisione consapevole e responsabile. In questo ultimo invito Gesù parla di discepolato, non di salvezza. Il Figlio di Dio chiede un discepolato che rinneghi la propria volontà per compiere quella di Dio. Questo è il primo presupposto per diventare discepoli di Cristo. Se nel seguire Cristo abbiamo ancora negli angoli del nostro cuore ambizioni e diritti che riteniamo siano leciti da soddisfare, allora non possiamo seguire Cristo pienamente. Saremo come Cappuccetto Rosso che doveva andare dalla nonna, ma lungo il tragitto si era lasciata sedurre dalla bellezza dei fiori. Chi desidera essere discepolo di Cristo deve pure essere disponibile ad accettare tutti i sacrifici della chiamata. Qualsiasi impegno comporta sofferenza e fermezza, quanto più l'impegno di seguire Cristo, un Cristo crocifisso. Se il Figlio di Dio è stato crocifisso, schernito, vilipeso, quanto più i suoi discepoli. La croce, per quanto si dica, è sempre un luogo di supplizio, di sofferenza. Un vero discepolo di Cristo prenderà la sua croce e non quella di un altro. Infine, il vero discepolo di Cristo segue le orme del suo Salvatore. Quando si seguono delle orme non si percorrono sentieri nuovi, non si agisce secondo i propri parametri morali, ma ci si limita a mettere il piede dove qualcuno lo ha già messo. Un simile modo di camminare rende il cammino più facile, ma è esente della libertà della propria volontà. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano credenti, diventino suoi figli, siano santi, vivano da cristiani. Alcuni di questi li chiama perché diventino discepoli di Cristo, altri lo diventano perché lo desiderano. Può darsi che tu non abbia ricevuto una chiamata simile a quella degli apostoli o di Paolo, ma puoi sempre decidere di diventare discepolo di Cristo. Lui non ti rifiuterà. Ti metterà solo davanti tutte le difficoltà, ma proprio per questo dimostrerai di aver compreso il suo amore, mettendoti al suo servizio a qualsiasi costo. Possiamo scegliere di diventare dei fedeli servitori o solo dei credenti che incontreranno un giorno il Signore a mani vuote. Il discepolato cristiano è la decisione di camminare nelle vie di Cristo, in modo costante e fermo, e poi la scoperta che il cammino integra tutti i nostri interessi, le nostre passioni e i nostri doni, i nostri bisogni umani e le nostre aspirazioni eterne, e il modo di vivere per il quale siamo stati creati. Io ho scelto di essere un discepolo di Cristo, perché oltre al premio che mi aspetta ho una vita appagante. E tu? Agosto 1977. Marzo 2005. Ellero.